get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, ben sintonizzate sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Quella di oggi segna la ripresa delle trasmissioni del CLR dopo la pausa estiva. Forse se chiudiamo la finestra è meglio, perché stasera gioca la Roma, ai noi, e quindi meglio isolarci per un pochettino. Dicevo che quella che sentirete oggi è segna la ripresa delle trasmissioni dopo la pausa estiva, e diciamo che cominciamo anche nel migliore dei modi, con una graditissima ospite che ci parlerà di History, che rende fruibile la storia dei gruppi e dei collettivi femministi a Roma e nel Lazio dagli anni 70 ad oggi. Ma per il momento non aggiungiamo altro, per non anticipare quanto la nostra ospite ci dirà, per cui ascoltiamo un brano musicale che ci catapulterà di botto in quel periodo storico. Infatti si tratta del brano femminista per eccellenza, dal titolo La Lega, ed oggi la ascoltiamo nella versione fatta da Sandra Mantovani e Giovanna Daffini. Sandra Mantovani, c'è qualcuna qui che l'ha conosciuta? Ma al di là di questo, questa versione non sarà la versione femminista, poi è stata anche modificata. Diciamo che questa è quella scritta, è quella originale. Popolare, esatto, è quella popolare, esatto. E benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Ali, oli, olà, e la lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Non c'è l'unione, cromiri col padrone, cromiri col padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo. Tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. E gli altri socialisti, ali, oli, olà, Bene, siamo tornate in studio dopo questo volo pindarico che è ancora prima, no? Perché questo è un canto popolare. Molto più antico. È antico, sì, è molto antico. Sono arrivata fino là. Allora, intanto in studio siamo Caterina, che come al solito fa anche la fonica, io che sono Lucilla, e finalmente arriviamo alla nostra ospite che è Giovanna Olivieri. Buonasera. Giovanna, che è impegnata nel movimento e comunque con le donne da tantissimi anni, diciamo da sempre, e che ha partecipato a varie associazioni, vari gruppi, e che attualmente occupa una postazione all'interno della Casa Internazionale delle Donne, diciamo estremamente particolare, ma in linea con qualcosa che sta dentro di lei da sempre. Io la conosco da moltissimi anni, Caterina anche. Uguale. E quindi porrei subito la prima domanda, prima ancora di arrivare al progetto che stasera, di cui vi parlerà stasera e che vi presenteremo stasera. Giovanna si occupa di memoria ormai da sempre, diciamo da quando la conosco, e sono tanti anni, sono una trentina d'anni, Giovanna, quindi insomma non diciamo le nostre età, ma diciamo da 30 anni, ce ne abbiamo 32 per uno, e quindi esatto. Da 30 anni. Ok, allora ti interessi di memoria da tanti anni, prima ALI, che erano archivi lesbici italiani, poi Archivia all'interno del progetto più generale nella Casa Internazionale delle Donne, quindi con una raccolta enorme di volumi e di materiale scritto, no? Ci vuoi raccontare brevemente questo percorso e com'è, insomma, che ti appassiona così tanto? Appassiona. I racconti. Allora, si dice sempre, partiamo da me, e partendo da me ho fatto il primo centro di documentazione delle donne quando ancora vivevo a Rimini, quindi nel 1981-82. E perché facevo parte del movimento femminista riminese, e già all'epoca avevo l'idea che le parole e la storia delle donne dovevano essere diffuse, per poter essere diffuse e conosciute dovevano essere però conservate. E poi nell'87, appunto, come ricordava Lucilla, insieme ad altre del CLI abbiamo fondato gli Archivi Lesbici Italiani, perché lavorando nell'associazione che produceva una bollettina del CLI, appunto, ci arrivavano tantissimi materiali che tutti i gruppi italiani ci mandavano sulle iniziative perché fossero pubblicate sulla bollettina, o anche semplicemente dagli scambi che noi avevamo con giornali di altre associazioni. C'erano tutta una serie di materiali, informazioni che io pensavo andavano conservati, e quindi è stato fondato il gruppo di lavoro, e poi gli archivi lesbici sono stati raccolti e si chiamano appunto ALI. Nel 2001, quando si è riusciti finalmente, dopo la lunga trattativa, ad avere la Casa Internazionale delle Donne, tutti i centri di documentazione, i gruppi che avevano accumulato materiali, hanno deciso di formare un'unica associazione chiamandola Archivia, che raccoglie appunto i centri di documentazione, sia dal punto di vista del patrimonio librario sia quello documentario che c'era a Roma. Quindi ci sono 10 fondi storici, dal collettivo di Via dei Sabelli di San Lorenzo al centro documentazione Alma Sabatini, a tutto l'archivio della rivista Noi Donne, che quindi nasce nel 44, quindi ha un archivio enorme, soprattutto 35.000 foto, naturalmente anche altri gruppi che comunque sono stati importanti, le MLD, il Centro Documentazione e Studi sul Femminismo, che nasce nel 72 e quindi raccoglie tutti i materiali degli anni 70. E abbiamo fatto questa associazione nuova che gestisce la biblioteca e naturalmente anche tutto il patrimonio ereditato, non sempre nostro, noi spesso l'abbiamo in deposito, però lo gestiamo, lo conserviamo e lo rendiamo fruibile agli utenti. Non ho ancora risposto come mai sto pallino per la memoria. Penso perché mi piacciono molto le storie, sono appassionata di biografie, perché mi sembrano sempre molto più interessanti dei romanzi e perché vengo da una famiglia di narratori dove la genealogia familiare, anche se noi eravamo gente poverissima, è sempre stata raccontata in una forma di automitobiografia, quelli che erano partiti per l'America, poi erano tornati, quelli che erano andati in Francia, lo zio prete che si era spretato, cioè, e quindi questa cosa mi ha sempre molto presa. Senti, a questo punto io entrerei proprio nel vivo della trasmissione, visto questo cappello introduttivo che descrive il soggetto Giovanna Olivieri e Archivia, ci vuoi spiegare che cos'è Hestory? Sì, allora praticamente tutto questo materiale, prima di tutto bisogna far sapere che c'è. E questo è uno dei problemi degli archivi, perché ci vogliono tantissimo lavoro e tantissimi soldi per poterli rendere consultabili tipo online, quindi almeno bisogna far sapere che esiste questa miniera che io chiamo dei tesori di carta. E questo è sempre stato un obiettivo di Archivia e in particolare mio, perché io ci tengo molto che le parole, i pensieri, la storia delle donne non sia dimenticata, e comunque ancora oggi potrebbe parlare molto alle giovani generazioni, non solo per una questione di trasmissione, ma proprio di input nuovi rispetto a tanti temi, a tante parole del femminismo che sono stati nel frattempo estremamente frantumati, usati, spostati, e invece se uno va a vedere gli scritti dell'epoca ritrova ovviamente un atteggiamento molto più semplice nel linguaggio, molto più radicale nelle posizioni e molto più comunicativo, perché all'epoca il partire da sé era veramente un partire da sé, quindi estremamente comunicativo anche per le giovani generazioni. Al tempo aveva più senso, insomma, sì. Diciamocela. Sì, è proprio ancora oggi, se tu dai in mano alle giovani ricercatrici documenti dell'epoca, poche hanno il tempo per farlo, rimangono proprio folgorati. Io le vedo, insomma, che si accendono le lampadine, tu gli dai in mano certi documenti, non so, anche partire solo dal manifesto di Rivolta Femminile, e già gli cambia la prospettiva con cui guardano le cose. Quindi questa è la premessa. Poi ovviamente per farlo conoscere io faccio prodotti, prodotti che seguono naturalmente le modalità con cui oggi le giovani donne, e non solo le giovani donne, interagiscono rispetto alla memoria, quindi strumenti, contenuti molto precisi e strumenti invece estremamente moderni. Quindi il progetto era quello di far un censimento di tutto il femminismo romano, perché non esiste, ci sono stati fatti alcuni pezzetti in altre città, ma non c'è un vero censimento, dove, quanti erano i gruppi, cosa hanno fatto, dove hanno lavorato, dove avevano sede, come si sono sviluppati. Quindi un censimento geolocalizzato, come si dice in termini tecnici, utilizzando però uno strumento molto innovativo che era quello di un'app per poterli mettere sugli smartphone, sui tablet, sugli iPhone, eccetera, in modo che chiunque oggi può, venendo a Roma o certamente anche abitando fuori, avere un'idea di alcune cose della storia dei gruppi romani, e poi con altre cose sono state aggiunte, cioè i gruppi più recenti, alcune attività gestite dalle donne commerciali oggi, e anche una mappa delle manifestazioni più grandi, che siccome Roma è la città naturalmente del Parlamento, una città di grandissime manifestazioni, che quindi fanno rivenire alla memoria, fanno conoscere elementi e facce e modi di essere dimenticati della protesta delle donne. Se mi posso inserire, visto che tu hai proprio nominato altre esperienze in altre città, è un'esperienza, diciamo, analoga come cercare di fare memoria, è quella di Milano, della produzione del libro, no? Aspetta che mi rivedo il titolo, che sennò che è Mia madre femminista, a cura di Marina Santini e Luciana Tavernini dell'editore Il Poligrafo, no? Sì. Che però è, diciamo, un dialogo tra, diciamo, la femminista e la figlia, che già tentato dalla Gramaglia, peraltro, sì. Quindi non è nuova come idea, sì, certo. Esatto, però poi, e che però tenta di mappare in qualche maniera. Ma la tua di esperienza, a me sembra, con quella tua proposta e questa esperienza, mi sembra ancora più moderna e ancora più puntuale. E quindi insomma anche più fruibile, perché un libro, perché no, diciamo che per chi si occupa di memoria e di storia ci sono vari elementi. Allora, uno è, diciamo, la raccolta di testimonianze. Io leggo tutti, quasi tutti i libri che escono di testimonianze, e sono spesso pieni di errori. Mm-hmm. Perché? Perché sicuramente la memoria, come direbbe Manuela Fraire, è dolorosa. Molti tentano di dimenticare quello che non, che fanno fatica a ricordare, una fine di una cosa, una cosa non riuscita, eccetera. In più è molto traditrice, perché non solo per la rimozione, ma proprio perché spesso noi abbiamo cambiato strategie nella nostra vita, quindi quello del passato è una continua rielaborazione. Sì, e rivisitiamo solo, la memoria, rivisitiamo, no? Certo. Quindi un conto sono perciò i libri di memorie, le interviste, i racconti raccolti dalle testimone, che non sempre sono elementi diversi, diciamo, ma tutti più o meno appartengono a un filone, che è quello di rendere un clima con il protagonista che guarda sia i fatti della storia sia come hanno interagito con se stesso. Invece volevo fare proprio tutt'altro. Mm-hmm. Io volevo fare un lavoro di cronachista del movimento. Certo, è sempre una storia raccontata da Giovanni Olivieri, perché questo lo dobbiamo dire. Però diciamo che non c'è in questa cosa una tua interpretazione o un tuo rivissuto. C'è la mia, nel senso che io ho selezionato secondo dei criteri, dei materiali, però mai fidandomi delle testimonianze o dei ricordi, sempre solo quello documentato dai documenti che c'erano dentro l'archivio. Quindi non è esaustivo, perché, e qui bisognerebbe aprire un altro capitolo, cos'è che si è conservato nell'archivio? Ma innanzitutto i gruppi che credevano nella scrittura, altri gruppi non hanno scritto nulla, quindi non è che c'è una testimonianza vera. Oppure gruppi forti, longevi, prendiamo il Movimento Femminista Romano, Pompeo Magno, che dura 30 anni, oppure non so, altri gruppi che hanno avuto una lunga militanza, sono stati importanti. Quindi i cosiddetti gruppi forti hanno lasciato più testimonianza, erano più consapevoli dell'importanza di lasciare questa testimonianza, e quindi di quelli ci sono molti più materiali. Però io solo ed esclusivamente ho selezionato le cose, quindi volantini, manifesti, foto, striscioni, pezzi di giornale, eccetera, che documentavano l'esistenza di un gruppo. In certi casi solo uno striscione o una manifestazione documenta che quel gruppo che veramente esisteva. E tutti, diciamo così, gli elementi che nel caso di una maggiore ricchezza riuscivano a costruire una linea di qual era la specialità di questo gruppo, di che cosa si è occupato, in quali termini, eccetera. Quindi il mio è un lavoro fatto soltanto sui documenti, è una specie di pre-storia, poi saranno gli storici che scriveranno le storiche nel nostro caso. Ma tu, quindi, tu hai già risposto alla terza domanda, no, in parte. Come hai raccolto le fonti? Sì. E quindi adesso hai avuto difficoltà, quali? Che hai già detto, e perché? Che sono molto interessanti, perché va bene, siccome è un comportamento che ancora tendiamo ad avere, magari può essere un modo. Io direi che teniamo questa domanda per dopo, mandiamo un pezzo musicale intanto, così ho starnuto. Che sennò non saprei. Sì. Allora, visto che abbiamo parlato del movimento femminista romano, ho pensato di mettere un brano musicale di Fufi Sonnino, che è Tango della femminista. Chiaramente 1973-74. Vedi, l'archivista, l'archivista esce fuori sempre. Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, zza. Una guardata, una bruciata, quel corpo e non ci prova più. Tango della femminista, tango della ribellion. col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Aritango della femminista. Tango della ribellion. Con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena, se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Ah, tango della femminista. Allora Giovanna, per tornare a noi, è proprio una cosa tecnica che mi interessa che sia palesemente raggiungibile. Come si può attivare questa applicazione di cui ci parlavi e come strutturata? Io so delle cose perché l'ho già vista e poi ti dirò le mie impressioni al riguardo, però magari se rendi possibile anche ad altre. Sì. Giusto per non far finta che mi ero dimenticata che dovevo rispondere a una domanda precedente, quali erano stati i documenti che avevo utilizzato, allora sicuramente l'archivio fotografico, perché la parte, la mappa delle manifestazioni sono tutte foto geolocalizzate, anche quelle dove erano state fatte con la... E poi molto i giornali, però i giornali delle donne, perché diciamo che dal punto di vista delle date ci sono i giornali che nascono all'inizio del 70 ma muoiono subito, poi c'è F che nasce nel 73 e che non era un vero e proprio giornale di movimento ma riporta molte notizie del movimento, poi dal 78 è Quotidiano Donna, che invece aveva proprio la struttura di un giornale, quindi ha tantissime informazioni, appuntamenti, scritti che mandava il movimento. E poi successivamente il Paese delle Donne, che dall'85 rimane di fatto l'unica fonte generica di informazione per le donne, femminista naturalmente. Poi certamente corredata dalla rassegna stampa di tutti i quotidiani che scrivevano e così via. Quindi, e poi documenti prelevati dagli archivi, e che quelli erano appunto volantini oppure comunicati stampa, scritti insomma per documenti di riflessione e così via. Tornando invece a che cosa ho fatto con tutta questa roba, ecco. Allora praticamente è stato costruito un sito in cui sono state collocate delle mappe fatte con Google Maps eccetera, con tutti dei segnalini per rendere diciamo fruibile dal pubblico, anche non solo di chi si vuole divertire andando in giro per Roma con la mappa, ma anche per consultarlo. Abbiamo fatto delle mappe che hanno gli anni 70 suddivisi però in livelli diversi, perché c'è un primo femminismo che è solo nel centro, poi si allarga alle periferie eccetera, quindi anni 70-74, 74-78 e così via, e poi ci sono gli anni 80 che il femminismo cambia ma è ancora molto diffuso, e poi gli anni successivi dal 90 in poi. Queste sono le mappe all'interno delle quali si può navigare, perché se si passa sul segnalino ti viene fuori una piccola scheda bilingue, perché deve essere anche consultabile anche, in cui ti dice l'indirizzo, il nome del gruppo, l'indirizzo, e poi se tu ci clicchi sopra ti manda al sito, perché l'app in realtà funziona come un'app, tu ti scarichi l'app, vai su Play Store dove, secondo me vuoi ripetere il nome così almeno allora, magari se lo l'app si chiama Her Story, i luoghi delle donne. Ed è scaricabile, gratuita naturalmente, c'è per Android e per iPhone, insomma i due sistemi fondamentali. Uno si scarica l'app, dopodiché può navigare nell'app e può sapere io sono qui, qual è il percorso per arrivarci, i luoghi più vicini. Se poi uno vuole saperne di più su questi gruppi, allora a quel punto deve semplicemente cliccare sul link e ti rimanda al sito in cui si apre la scheda, la pagina relativa con dentro le foto, i documenti e i pezzi, diciamo, di raccordo alla scheda. Poi dopo ci sono altre cose, documenti scelti dal documento originale dell'epoca, le manifestazioni. Quindi è un complesso sistema che può essere consultato, sì, appunto, perché io sono in giro e voglio sapere dove sto, poi sono via Cavour e lì c'è stata quella manifestazione, questa dove nel 1000 durante la legge sull'aborto il grande corteo dell'Udi che veniva da Piazza dell'Esquilino confluisce con quello del femminismo che invece veniva da Santa Maria degli Angeli, e questo enorme corteo impreparati tutto, perché qui c'era il corteo che mi ha fatto sulla Riprendiamoci la notte, la grande manifestazione sulla violenza 76, quindi sono tantissime cose. Questo è come è e come funziona. Dopodiché ovviamente dipende molto da che cosa uno vuole sapere. Se uno vuole semplicemente fare una ricerca di un gruppo, c'è la ricerca, quindi tu digiti Movimento di Liberazione della Donna oppure Movimento Femminista Romano e lì ti si apre la scheda correlata, oppure appunto viaggi attraverso le mappe o attraverso le schede. Beh, è una cosa interessantissima. Poi la cosa che ti volevo, l'aneddoto più che altro che ti volevo raccontare io, è che io ho scaricato l'applicazione e tutto quanto, stavo col mio telefonino che è piccolino, per cui ha un display piccolo, e siccome sono pure un po' ciecata, no? C'è un motore di ricerca dove tu puoi selezionare l'elemento che ti interessa. Sì. Io, siccome ero così contenta che questa applicazione fosse sul mio telefonino, volevo vedere tutto, ho selezionato tutto, visto in alto, per cui mi si è aperto questa schermata dove ci stavano 85.000 punti e io ho detto e mo? Oh boh! Ma a parte e mo, io non ricordavo, avendolo vissuto in parte il femminismo romano, cioè io ci stavo, ma non avevo assolutamente idea di quanti gruppi, di quante associazioni, di quante cose ci fossero state a Roma nel periodo in cui io lo stavo vivendo. Ed è stata una sensazione bellissima, perché al di là di quella che era la mia esperienza personale di vita politica all'interno di un gruppo, porca miseria, ce ne stavano tante, capito? È un po' la rivoluzione non cruenta, esatto. No? Sì, ma è un impatto emotivo molto forte, perché poi cioè, tenendo presente che, siccome poi io, questo è un dettaglio tecnico ma serve a confermare quello che dicevi tu, per esempio l'indirizzo di via del Governo Vecchio, che è la casa della donna, avrebbe avuto 40 segnalini tutti uno sopra l'altro, perché c'erano stati dentro a lavorare quasi 40 gruppi, certo. Quindi lì ho dovuto mettere un solo segnalino, e nella scheda, quando tu ci clicchi, c'è casa della donna. Prima sì, però ci stava questo. Per cui sono circa 300 i gruppi per tutte le manifestazioni, ma ogni segnalino dentro a sua volta, ne perché ci sono tanti. State vari indirizzi in cui c'erano molti gruppi, tipo certo. Via Germanico aveva tantissimi collettivi, Capo d'Africa aveva tanti collettivi, la Casa della Donna, non diciamo il Buon Pastore, per esempio, per renderlo leggermente più leggibile, siccome c'ha due indirizzi, due ingressi. Allora ho fatto il Centro Femminista Separatista, l'ho messo in via San Francesco di Sales, e però lì dentro ci ho anche messo tutti i gruppi ospiti, certo. E tutte le storie di gruppi. Poi dopo di là ci ho messo due segnalini, uno per la parte occupata fino al 2000 e poi per la Casa Internazionale della Donna, ma lì dentro c'è una tonnellata e certo. Più di gruppi che hanno lavorato in quel periodo. Certo. Allora, quindi un lavoro immane e soprattutto un impatto emotivo altrettanto immane. un mare. Bene, ma per fare tutto questo avete avuto... perché so che oltretutto non hai lavorato da sola, per fare tutto questo progetto avete avuto finanziamenti pubblici, privati, sì. Oppure? Allora, dunque il progetto, la parte culturale l'ho fatta io e ero la responsabile, però fondamentalmente quello è un progetto di grandissimo contenuto tecnologico, e quindi quello è un'idea. E io questa idea della mappa ce l'ho sempre avuta, ma non sapevo mai come realizzarla. Poi Valeria Santini, che è la capo progetto tecnica, ha invece pensato che la cosa migliore da fare era l'app, E quindi lei ha fatto tutto questo lavoro infinito di mettere tutti i segnalini, rielaborare tutte le immagini per poterle mettere dentro, ricontrollare tutte le schede, fare tutti i link, insomma un lavoro veramente. E purtroppo l'abbiamo dovuto fare con tempi strettissimi, perché siccome è uscito un bando l'anno scorso per l'innovazione tecnologica delle donne, che si chiamava innovazione sostantivo femminile, è un bando della Regione Lazio che viene gestito da Bic Lazio, che è quella che gestisce lo startup dell'impresa, e ci hanno dato solo 6 mesi, quindi essendo noi partiti primi di marzo, questo progetto deve essere finito entro agosto, quindi col cavolo che si potevano fare le ferie, perché sai, uno dice, finisce a marzo dell'anno prossimo, quindi abbiamo lavorato tutto luglio, tutto agosto, con il caldo che faceva quest'anno. E Valeria poi non vive neanche a Roma, quindi abbiamo fatto tutto per molto, diciamo, per mail. Io controllavo, lei mi mandava, siamo ormai espertissime su Google Drive, WeTransfer, eccetera. E questo lavoro poi ha avuto altre grandi collaborazioni. Devo anche ringraziare molto le collaboratrici di Archivia, perché io ho preso delle collaboratrici più anziane, più storiche, per fare il lavoro con me di ricerca, però poi tutto il lavoro, la schedatura, i database, le scansioni, eccetera, tutto quel lavoro lì che è veramente prezioso, perché deve essere fatto con molta cura, l'hanno fatto queste due giovani ricercatrici che lavorano da me. Bene, sentiti. Che sono Ilenia e Irene. Ilenia Di Blasio e Irene Baldo. No, Irene Passara Paolone, oddio. Lascia tremendo. No, non ti preoccupare. Senti, un'altra domanda. Ci sembra che le donne e le lesbiche non abbiano l'abitudine, come hai sottolineato anche tu prima, di trasmettere la loro cultura testimoniando i saperi delle loro esistenze, no? Che significa quindi per te avere questo trip della memoria? Sì. Dunque, io ho lavorato per tanti anni alla bollettina, e il problema della bollettina era sempre trovare qualcuno che scrivesse, naturalmente anche qualcuno che scrivesse e firmasse, perché non si firma. I primi tempi della bollettina sono tutti Caterina, Claudia, Vincenzo, Giovanni, eccetera. E perché? Perché per poter diciamo avvicinati un pochettino più, sì. Okay, ecco, per avere più vicino a questo atteggiamento della memoria, bisognerebbe avere una forte sensazione del presente, e questo è molto strano. Le donne hanno una grande, poi ci torneremo quando parleremo delle date, sembra che vivano sempre nel presente, però nello stesso tempo non lo considerano importante, e quindi la testimonianza è quella sul ricordo. Il documento invece viene prodotto durante, se non c'è, dopo non ci rimane più il documento. Quindi solo quelle che scrivono di mestiere in realtà, e i gruppi che, come dicevo prima, hanno lasciato per una serie di circostanze testimonianze della loro esistenza, perché intervenivano molto all'esterno. Per esempio i gruppi di autocoscienza non hanno scritto quasi mai nulla. Ma lì si andava anche molto sul personale, e quelle che ci hanno provato, che hanno fatto alcuni numeri di differenze, gruppi di psicanalisi, eccetera, spesso finito il numero del giornale si scioglieva. Sì, perché, per i grandi conflitti, perché ha fatto, a parte per i conflitti, per la difficoltà di rappresentarsi, esatto. Rispetto a quello che era il vissuto, questo sì, c'è in tutte. Sì, e infatti era poi quello, perché ricordo anch'io, avendo fatto poi i gruppi di autocoscienza, che al di là di quello che si scatenava all'interno, era proprio molto difficile, se non eri lì, capire che cosa stava accadendo. E quindi poi rielaborarlo in qualche maniera era veramente complicato, complesso, e non è stato fatto. Però è stata una vera rivoluzione, insomma. Sicuramente è stato un grande elemento di cambiamento delle donne, perché al di là di tutto, se uno non fa non si mette in una condizione di poter discutere con le altre meccanismi con cui vive la propria vita e quindi decondizionarsi e ricondizionarsi. È molto difficile avere dei veri cambiamenti nella struttura delle persone, e sono ormai tutte condizionate, quindi l'autocoscienza scardinava, creando anche molti drammi, ma sicuramente aprendo tante finestre diverse. Assolutamente sì. Vogliamo partire con un altro pezzo musicale oppure continuiamo? Non me lo sono preparato, quindi se allora, magari vabbè. Andiamo avanti un allora. Pochettino così. Cioè. Allora andiamo. Una domanda riguarda le manifestazioni. Sì. Quindi una delle pagine del sito appunto riguarda le grandi manifestazioni che ci hai già accennato, dove all'interno si possono vedere molte foto recenti e meno recenti. Allora, delle manifestazioni ne abbiamo parlato, parliamo adesso delle fotografe. Allora, ci vuoi dire qualcosa su Guarda. Queste fotografie e su queste fotografe? Allora, le foto sono tutte bellissime, sì. Perché sono quasi tutte in bianco e nero. Quelle più recenti, qualcuna le ho avute così da amiche che me le hanno regalate, però sono quelle... Perché sono tutte foto che provengono dalla redazione dei giornali. La maggior parte proviene dalla redazione di Noi Donne, ma molte provengono anche dalla redazione di F. Daniela Colombo, che ha un proprio fondo di fotografie. Prima di fare la presidente dell'AIDOS, la giornalista, eccetera, faceva la fotografa e faceva foto molto belle. Poi ci sono quelle dell'Agosti, eccetera. Le fotografe, la Mercadini, non ne voglio dimenticare qualcuna, ma anche i fotografi che... riescono proprio perché sono fotografie nate per il giornale, quindi foto professioniste, non foto amatoriali, loro poi questi servizi devono vendere, certo. Riescono a dare una rappresentazione del femminile che per l'epoca era proprio controcorrente, cioè era un qualcosa che li aveva presi non si sa bene come, perché anche le donne certamente, ma perché questa rappresentazione di tutte queste donne in piazza, questi corpi oppure anche quelle fatte all'interno di certe riunioni, convegni, cioè tutti che fumavano come dannate. Questo elemento è veramente molto importante, per cui tutte le fotografie sono di per sé un racconto, si reggono proprio benissimo, danno questo impatto con un modo diverso delle donne di essersi ripresa, come si direbbe oggi, lo spazio pubblico, una volta c'era la piazza perché era più comodo. Certo. Senti, un'ultima domanda poi anche perché il tempo è un po' tiranno. Un po' tiranno, come si dice. Dunque, quando ci siamo incontrate per la preparazione di questa trasmissione, hai parlato quasi con nostalgia del buon vecchio ciclostile, sì. No? Sottolineando che oggi invece le iniziative, come dicevi anche prima, vengono pubblicate online, per cui spesso il materiale non viene stampato. Ci vuoi chiarire meglio il tuo rammarico spiegandoci quanto questa modalità possa creare difficoltà nel reperire materiale ai prodotti, quindi i documenti, i volantini e tutto quello che si produce? Certo, questo è veramente un problema, perché io per il diciamo le cose del passato ho avuto dei problemi rispetto a datarle, diciamo. Invece per il contemporaneo, per contemporaneo intendo dalla fine degli anni 90, 96, con l'avvento 96, dei computer, esatto. Diciamo di stampato c'è molto poco, ma veramente molto poco, cioè proprio una ricerca certosina che devi fare. Agli archivi ce n'è una parte naturalmente, ma molte altre cose già sono online, ma i siti che pubblicavano online in quegli anni non ci sono più, sono scomparsi. E queste pagine non si sa più dove trovarle, se tu le vai a cercare oggi. Io mi ricordo che per esempio nel 2002 era uscito un giornale che si chiamava La Rivistina, che era fatto benissimo, è durato 2 anni e poi è scomparso. Eppure lì dentro c'era tutta una documentazione molto interessante su che cosa succedeva in quel periodo, e quindi mentre il cartaceo del passato ci sarà sempre, lo possiamo consultare, digitalizzare, eccetera, quello che invece si produce oggi già sta sparendo e nessuno pensa di stamparlo, perché è un materiale, poi non dico, alcune cose andrebbero stampate. E in più anche i supporti, cioè anche se tu ti scarichi una cosa e lo metti sull'Appennina, e l'Appennina ti si rompe, la disco fuori, si smagnetizza, e quell'altro gli è andato a finire il virus. Quindi non so, mentre i documenti fragili, perché tutti i materiali degli archivi del Novecento sono fragilissimi, tutte cose ciclostilate, stampate a caso, addirittura un grave danno è stato quando è cominciato a esserci il fax a carta termica, quello, che va via dopo un po', sparisce. Se l'hai lasciata e ha preso un attimo la luce, dopo un po' non la leggi più. Quindi insomma il supporto di questa memoria, tanto per capirci, è effettivamente altrettanto importante del fatto di avercela, perché sennò poi non hai più, certo, i documenti per poterla conservare. Certo, allora sulla base di quello che hai detto te, adesso noi vogliamo fare un appello, vero Lucilla? Vogliamo assolutamente, soprattutto a tutte le donne che sono state nei movimenti. Allora, se avete materiale cartaceo in cantina, in soffitta o dovunque voi lo avete riposto con cura, contattate Giovanna alla Casa Internazionale delle Donne, che contribuirete a lasciare traccia. Ed io in modo particolare voglio dedicare la prossima canzone a tutte quelle donne come me che all'epoca in questione venivano chiamate l'angelo del ciclostile. Bene, allora. Ok, il brano musicale è contemporaneo, però è molto carino, perché si intitola Qui comandiamo noi, ed è una presa in giro della strutturazione all'interno delle sezioni, delle vecchie sezioni dove regnava il ciclostile, e la canta la menestrella femminista Nicoletta Salvi, e si intitola, come dicevo prima, Qui comandiamo noi. Cazzo dico tutte le tue amiche, perché qui chi comanda siamo solo noi. Ma ora levate un po', lascia fare a noi. Ne hai capito ancora che non conti in cazzo dico tutte le tue idee, perché qui chi comanda siamo solo noi. Ma ora levate un po', lascia fare a noi. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Alcune indicazioni per contattarci: qui in radio fino alle 22, quindi questa sera passate, magari la prossima volta, allo 06 49 17 50, oppure con una mail a contatti@clrbp.it, visitando la nostra pagina Facebook o il nostro sito che è www.clrbp.it. Adesso Lucilla vi dirà un appuntamento importante. Allora, sabato 24 vi aspettiamo numerose alla presentazione del libro alle 18:30, alla presentazione del libro di Margherita Giacobino, Ritratto di famiglia con bambina grassa. Allora, l'appuntamento è sabato 24 ottobre 2015 alle 18:30 presso la Sala Simonetta Tosi. L'ingresso può essere da via San Francesco di Sales 1A. Ora, questo libro è molto in linea con la trasmissione di oggi. Esatto. È autobiografia molto, molto romanzata, molto epica, che Margherita Giacobino fa della sua famiglia, delle sue origini montanare e dell'Alta Italia, del torinese. Dalla quarta di copertina vi diciamo, e questo è molto interessante: nasco femmina in una famiglia di donne e rappresento il futuro e la continuità col futuro. Mia madre, nutrita dall'amore e dalla forza della generazione che la precede, vede in me la logica e fortunata evoluzione di quel che è stato. Tutto si ripeterà così come l'ha conosciuto, ma in circostanze migliori, senza la morte e la guerra. Sono una bella storia in attesa di essere raccontata. Vi aspettiamo perché è CLR, Coordinamento Lesbiche Romane, e Chesbilè che vi invita. E salutiamo. Sì, salutiamo Giovanna. Grazie a voi. Grazie di essere venuta qui. E vuoi ripetere un attimino le coordinate? L'app la trovate appunto, secondo se avete un iPhone o uno smartphone, sul Play Store o Apple Store. E si chiama Her Story, con l'H davanti, perché è un gioco sulla parola, la storia di lei, i luoghi delle donne. Mentre se volete accedere direttamente al sito, perché anche da lì lo potete navigare con comodo, un tour virtuale dalla vostra poltrona di casa, il sito è www.herstory.it e troverete tutte le informazioni, la rassegna stampa, insomma tutto quello che vi può interessare. Se qualcuno vuole mandarci segnalazioni, aggiunte, correzioni o anche del materiale, che il sito si fa facilmente, si può facilmente aggiornare, l'abbiamo fatto per questo, perché naturalmente il complesso lavoro di datazione di tutto quel materiale, certo, è stato il più accurato possibile, ma magari qualche cosa potrebbe essere rivisto. Certo, quindi, certo. Ma grazie a te e noi tra 15 giorni qui, però vi aspettiamo sabato. Sì, d'accordo. Tra 15 giorni qui in radio e sabato alla Casa Internazionale. Andateci, arrivederci. Andateci, bellissimo quel libro. Ciao a tutte, ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.